Sente? Buonasera a tutti. Io ringrazio gli organizzatori per questa serata. Io sono Paola Bellini e sono di Ancona. E come diceva il relatore precedentemente, io sono anche interessata a Porto Recanati, perché ho una casa a Porto Recanati dove trascorro il periodo estivo. Perciò io ho fatto parte di quel comitato che si è attivato perché il gasificatore che doveva essere fatto davanti alla costa di Conero, il consiglio regionale votasse un ordine del giorno nel quale si diceva che nel territorio, nella costa della regione Marche, non devono essere fatti di gasificatori. Poi è riuscita fuori la cosa di Falconara. Io mi sono sinceramente terrorizzata, perché non si è, voi avete sempre parlato di Monte Marciano, di Falconara, ma voi non sapete che bomba c'è in Ancona. In Ancona c'è il porto, ci sono le navi, ci sono i traghetti, c'è un insieme di Ancona sta in mezzo tra il rigassificatore di Porto Recanati e il rigassificatore di Falconara. È una bomba innescata terribile. Io molte volte ho chiamato consiglieri comunali, ho scritto a Spacca. Credo che, siccome si è impegnato politicamente, credo che lui debba mantenere la sua parola per l'impegno che si è preso. Il consiglio regionale si è preso questo impegno. Io credo che una cosa molto grave stia succedendo, che ad Ancona per esempio non si parla di questo, non ci sono state riunioni, non ci sono stati comitati, non c'è stato niente che desse la forza a questa battaglia che deve essere comune, proprio perché si è detto che è il territorio di un'area vasta coinvolta. Io credo che noi tutti insieme dovremmo fare questa battaglia. Ecco, io sono venuta apposta stasera proprio perché l'amico su Facebook, che io leggo sempre molto volentieri, aveva accennato a questa cosa. Ho voluto partecipare perché stasera mi diceva il sindaco è stata questa riunione, ma io non ho sentito altri. Mi auguro solo che insieme riusciamo a dare quello stimolo e quella forza a quello che è il diritto di cittadinanza e il diritto di salute a tutti noi. Ecco, solo per questo sono a disposizione per qualunque cosa. Mi auguro che la politica, io sono una che ha fatto politica 20 anni, la mia politica è una politica con la fronte scoperta, con la gente, però mi auguro che questa politica in questo momento dia delle risposte vere e che i comuni e i sindaci, come è successo a Porto Recanati, non si facciano comprare dei finanziamenti per, non so, per il Giro d'Italia o finanziamento per lo sferisterio, perché bisogna parlare chiaro, non ce dobbiamo nascondere dietro a un dito. Gli interessi sono tanti, ci sono anche gli interessi di un comune che magari si trova in difficoltà economiche e trova questa scappatoia. Ecco, io credo che insieme, consapevolmente, dovremo trovare la soluzione e lavorare. Grazie. Grazie a te.